Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. C'è una storia di rispetto e amore legata a quell'oro penzolante al collo di quei ragazzi che a Parigi, in quella domenica del 27 luglio del 1924, in cui l'Olimpiade stava per concludersi, difesero con classe e orgoglio l'oro che l'Italia aveva già vinto 4 anni prima ad Anversa. Ed è proprio questa storia che vogliamo raccontarvi oggi a Olimpia. Angelo De Martini, Alfredo Dinale, Aleandro Menegazzi e Francesco Zucchetti. Questi i nomi dei componenti del team azzurro. Nomi che nascondono parabole, vite, storie, parallele e intrecciate, come i raggi di una ruota di una bicicletta, sull'asse che collega Lombardia e Veneto. Menegazzi è un 24enne di Buttapietra, vicino Verona. De Martini, anche lui del Veronese, da Villafranca, di anni ne ha 27. Veneto, eppure 24enne, e anche Dinale, di Vallorana di Vicenza. Lombardo, invece, di Cernusco sul Naviglio, ma già da tempo trasferitosi a Milano, è il più giovane del quartetto, Francesco Zucchetti, classe 1902. Come Zucchetti, anche la famiglia di Dinale ha dovuto lasciare i luoghi d'origine, quando la Grande Guerra è arrivata in Val Brenta. I due si sono allora ritrovati nel capoluogo lombardo, uniti anche a De Martini, cui li lega la maglia blu del Genoa 1913, il club milanese per cui corrono. Quanti intrecci intorno alla pista di quel velodromo a 5 cerchi, è vero? In questa storia che vi raccontiamo oggi, poi, c'è anche un assessore allo sport, quello del comune di Cernusco sul Naviglio, che si è trasformato in storico dello sport. Ermano Zacchetti, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi dell'ospitalità. Dottor Zacchetti, allora, ci spieghi un po' che atmosfera c'era a Parigi nei giorni dei giochi del 1924. Quei giochi avevano un'atmosfera particolare perché riportavano le Olimpiadi a Parigi, ne furono l'ultima edizione organizzata sotto la presidenza del barone de Coubertin. La precedente edizione, che si era svolta nel 1900, era stata un po' un fiasco. Era legata all'Expo che si svolgeva in quel contesto, e quindi de Coubertin ci teneva a fare bella figura a Parigi prima di lasciare la presidenza, insomma. Per cui c'era molta attesa. Le Olimpiadi riuscirono bene, ma ovviamente i francesi, che giocavano in casa, volevano fare bella figura anche dal punto di vista sportivo, ecco. So che a Cernusco avete anche fatto delle ricerche molto approfondite proprio su quella finale della gara di inseguimento a squadre di quella domenica 27 luglio 1924. Abbiamo recuperato il verbale di gara di quella edizione, un verbale appunto scritto in francese, che indica anche particolarità curiose. Quindi il meteo che prevedeva condizioni buone, pista eccellente, ma un temporale nel primo pomeriggio del primo giorno. C'erano 15 nazioni iscritte, ovviamente l'Italia, tra le favorite in quanto campione uscente, poi c'era la Francia che era ospitava la manifestazione, poi c'era il Belgio, insomma, che è l'altra nazione che poi tradizionalmente ha dimostrato di essere forte in questa disciplina. L'Italia pesca la Danimarca al secondo turno, al primo turno la Jugoslavia non si presenta, pesca la Danimarca al secondo turno, anche loro danno forfè, i nostri arrivano in semifinale subito e si trovano appunto Belgio, Francia e Polonia. E qui cominciano le grane, vero? Nella semifinale contro il Belgio partono, l'Olanda, che sta eliminata, fa reclamo perché dice che l'Italia infrante un regolamento in occasione della partenza. Il giudice fa compiere all'Italia e al Belgio tutta la sfida, e nonostante l'Italia vinca dice di ripetere la gara, e l'Italia la ripete e la rivince, anche se appunto i giudici fanno questo perché vogliono stancare l'Italia e far arrivare in finale contro la Francia appunto non in forma, in stanca. Ma nell'altra semifinale la Francia perde inaspettatamente contro la ripescata Polonia, anche perché un francese appena partito buca e lascia il quartetto in tre elementi, quindi non riescono a sostenere la forza della Polonia. Tutto più facile invece in finale. La finale è in discesa, i nostri la vincono davvero alla grande, ed anche ci sono alcuni script che ho recuperato di alcuni giornali dell'epoca. In particolare c'è il quotidiano di Verona, l'Arena, che ha due veronesi nel quartetto, e racconta che l'Italia si avvantaggia sia dal primo giro in una quindicina di metri, la Polonia nel secondo e nel terzo giro resiste coraggiosamente, ma nel quinto e sesto giro riperde terreno. Verso la fine uno dei polacchi si rialza sfiancato e la squadra azzurra, entusiasticamente applaudita, vince con un centinaio di metri di vantaggio. Tra l'altro c'è anche un commento della Gazzetta dello Sport del giorno dopo, che racconta come i quattro vittoriosi nella gara dell'inseguimento hanno avuto ragione, oltre che delle squadre avversarie, anche dei soprusi, delle angherie e degli ingiusti deliberati di un giurì del quale non sappiamo se maggiormente ammirare l'incompetenza o la raffinatezza nello sfavorire gli italiani. Quindi anche i giornali dell'epoca riprendono quanto successo in semifinale, quell'ingiusta penalizzazione che comunque ha visto l'Italia andare oltre e qualificarsi per la finale e poi vincere. Ecco, a distanza di decenni, su quell'asse tra Lombardia e Veneto che tanti legami aveva propiziato tra i protagonisti di quel trionfo, si realizzerà un altro piccolo grande miracolo, che davvero è il sugo di tutta questa storia fatta di coraggio, velocità, fatica, sudore, amicizia. Un piccolo grande miracolo che ha un altro attore protagonista, il signor Tiziano Protti, cernuschese a sua volta, appassionato di ciclismo e proprietario di un negozio di biciclette, e che oggi è ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera. Allora, signor Protti, lei, se non sbaglio, si è ritrovato in vacanza a Trichiana, nel Bellunese, e in modo del tutto casuale si è imbattuto nelle tracce e nelle spoglie di Francesco Zucchetti, il campione olimpico di Parigi 1924 e suo concittadino, giusto? Il tutto è avvenuto molto casualmente, chiamato dal comune di Trichiana, dove era deceduto Francesco, mi hanno chiesto se ero... potevo fare in modo che tramite il comune ci poteva portare a casa il nostro concittadino, perché loro avevano bisogno di tirar fuori questo campo, liberare questo campo, e loro non sapevano se buttarlo le ossa nelle fosse comune o seppure eravamo intenzionati a riportarlo a casa. Anche a Trichiana del resto ben poco si sapeva delle imprese sportive di Zucchetti, morto senza eredi né parenti nel 1980, proprio in questo piccolo paese del Bellunese. Loro hanno saputo di questa cosa anche loro per caso, perché a quanto pare Zucchetti era una persona molto riservata, non aveva mai portato a conoscenza dei suoi allori sportivi, però qualcuno del comune si è ricordato di questo campione olimpico e ne hanno fatto anche loro una cosa all'improvviso, perché anche loro non sapevano di avere in casa un campione olimpico. La sensibilità delle amministrazioni comunali di Cernusco sul Naviglio e di Trichiana, unita alla passione del signor Protti, hanno permesso, nella scorsa primavera, di riportare quindi le spoglie di Francesco Zucchetti a Cernusco, dove sono state accolte con tutti gli onori del caso, giusto signor Protti? Sì, ce l'abbiamo fatta in poche parole, cioè è stato fatto tutto un programma delle varie cerimonie, fino a quando siamo arrivati ad andarlo a prendere a Trichiana e portarlo a Cernusco. Dopo abbiamo fatto la nostra cerimonia, la cerimonia con parroco, autorità e tutto, gli abbiamo dato una sepoltura nella cappella comunale. Ora Francesco Zucchetti riposa nella sua Cernusco, la vittoria più bella per colui che pure aveva accarezzato l'oro più desiderato. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Ben ritrovati a Olimpia. Abbiamo rivissuto nella prima parte l'epopea di Francesco Zucchetti, classe 1902, il campione olimpico dell'inseguimento su pista a squadre di Parigi 1924, morto in solitudine nel 1980 e che solo nella primavera di quest'anno ha trovato finalmente degna e onorata sepoltura nella sua Cernusco del Naviglio. Ma in quale cultura sportiva affonda le proprie radici questa storia? Cos'era lo sport, in particolare a Milano e in Lombardia, a cavallo tra i due secoli? E quanto era popolare il ciclismo su pista e su strada? Tutte domande cui proviamo ora a rispondere con l'aiuto del nostro ospite, il professor Felice Fabrizio, storico dello sport, presidente onorario della Società Italiana di Storia dello Sport e autore, tra i vari titoli, di Una storia e leggenda dello sport milanese, edito proprio quest'anno da Infinito Edizioni. Professor Fabrizio, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a te. Professore, abbiamo visto come Zucchetti, pistard di gran talento, muova le prime pedalate in questa società milanese, la Genova 1913. Di cosa si tratta? Sì, che è una delle più gloriose società ciclistiche milanesi. Sicuramente non tra le prime, ma poi tra le più longeve, anche e soprattutto in virtù del dinamismo del suo dirigente Adriano Rodoni, che sarà poi il presidente della Federazione Ciclistica Italiana nel secondo dopoguerra. Siamo in un'epoca, mi corregga se sbaglio, in cui lo sport moderno sta prendendo ancora forma. Molti atleti, ad esempio, sono polivalenti prima di scegliere la loro disciplina preferita. Allora, la polisportività, cioè l'assenza di specializzazione, era uno dei connotati, in particolare di quella che possiamo definire la dimensione originaria, che è una dimensione amatoriale, che viene sviluppata e portata avanti dalle élite, che sono quelle che poi comunque inventano questi tipi di sport. Ecco, qui è effettivamente è la passione. Questi pazzi del Veloce Club, che è una società aristocratica, che alterna le corse a feste danzanti e a ritrovi mondani, è uno dei luoghi più esclusivi della sociabilità milanese. Anche se poi succede qua con quello che succederà in altri contesti, cioè appena il territorio viene minacciato dall'invasione delle classi subalterne, gli aristocratici si ritirano in territori più riparati e sempre più inaccessibili, che alla fin fine saranno poi quelli degli sport del motore, degli sport invernali, tanto costosi, tanto impegnativi, che sono comunque preclusi al povero diavolo. E mi pare che, per quanto riguarda il ciclismo, è la pista e non ancora la strada proprio a farla da padrone, è vero? Allora, il ciclismo milanese, che nasce in realtà nel 1870 con la fondazione del Veloce Club Milano, la seconda società ciclistica milanese, si sviluppa soprattutto attraverso il ciclismo su pista. Ed è inevitabile che sia così, perché le condizioni delle strade e i mezzi antidiluviani su cui correvano questi poveri disgraziati rendeva molto difficile la pratica del ciclismo su strada. E i milanesi amano tantissimo il ciclismo su pista, si affollano attorno ai primi rudimentali ciclodromi, delle piste in terra battuta, tracciate in varie località di Milano e poi ancora più numerosi nelle prime strutture stabili con pista in cemento. La prima è il campo sportivo milanese, che verrà realizzata poco prima dello scoppio della Grande Guerra, sorgeva più o meno nei paraggi dell'attuale disgraziatissimo Vigorelli. Quindi la pista allora era più amata e popolare dell'attività su strada. Certo, beh, però devi pensare che i primi esperimenti di corsa su strada, che ci sono comunque già negli anni 70 del XIX secolo, sono delle maratone assolutamente massacranti, dove in cima a questi monumentali velocipedi si fanno delle cose incredibili, tipo la Milano-Torino o altre corse da città in città, oppure la più spettacolare e terribile di tutte, la corsa della Gran Fondo, una corsa sulla distanza di più di 500 chilometri, che è un autentico gioco al massacro. Nel suo libro racconta ad esempio di un giro di Lombardia del 1905 corso in una giornata da tregenda, Queste corse disputate su strade non asfaltate e spesso l'annuncio era si correrà qualunque siano le condizioni del tempo e manco a farlo apposta le condizioni del tempo saranno catastrofiche, per cui correre questo giro di Lombardia in cui non erano ancora inserite le salite più impegnative che saranno aggiunte in seguito, ma che in ogni caso si disputava su una distanza enorme, è stata veramente un'impresa ragguardevole. Quando invece avverrà il sorpasso, cioè quando le gare su strada diventeranno il cuore dell'attività ciclistica lombarda e nazionale? Diciamo nei primi anni del Novecento, e qui il ruolo decisivo lo gioca la Gazzetta dello Sport, che si mette ad organizzare prima queste grandi classiche, il Giro di Lombardia, la Milano-Sanremo, e poi per prevenire la possibilità che i giornali concorrenti la precedano, vara addirittura il Giro d'Italia. E ecco, allora è chiaro che la pista comincia a decadere e agli eroi della pista succedono i giganti della strada, moltissimi dei quali sono di origine o milanese o comunque dell'Interland milanese e della Lombardia in generale. Celebri tre moschettieri, per cui si infiammeranno gli italiani che vanno a sfidare i francesi nel Tour de France: Ganna, Galetti e Berardo Pavesi, sono tutte e tre lombardi, quindi i milanesi li sentono molto come loro. E a questa cosa è collegato un altro fenomeno molto interessante, cioè la stigmatizzazione del professionismo sportivo, che permette invece proprio ai proletari di accedere alle attività agonistiche e di intravedere in esse una possibilità di promozione sociale, di riscatto, di emancipazione. Nei confronti del professionista sportivo c'è lo stesso tipo di rifiuto che ci può essere nei confronti della cortigiana, del cacciatore di frodo, del giocatore di professione, cioè lo sport si deve fare per il piacere di farlo. Se poi qualcuno cerca invece di trovarci un legittimo guadagno, e allora l'anatema ricade su di lui. Senta, è il nostro amato calcio in quegli albori di fine 800, inizio 900, dov'è? Sullo sfondo invece incredibilmente c'è il calcio, che non è ancora, è lontanissimo dal diventare quella specie di feticcio nazionale che diventerà in seguito. È ancora in fase embrionale, è un calcio molto molto bambino, molto diffuso e praticato, ma non ancora così popolare, così coinvolgente. Davvero, questa è tutta un'altra storia. Felice Fabrizio, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.